Radio 24 Reportage. I fatti del 2016. Un teatro dentro il carcere aperto al pubblico. La cultura spezza l'isolamento, di Andrea Ferro. Il sipario si apre con le emozioni che cigolano nell'attesa finalmente spezzata. È un movimento che rinnova la magia antica e moderna al tempo stesso della rappresentazione. Scena, arte, provocazione, vita, immaginazione. Ma in questo posto dove tutto è sempre stato buio e ristretto, il sipario non è solo un telone, fa l'effetto di un muro che si sbriciola come d'incanto, un sofferto gioco di metafore e di luci che si sovrappongono a dare visibilità e fiato. Un ghetto socialmente accettato come una necessità, un'isola tra il cemento popolata di reietti, sconfitti, scartati, colpevoli e tutto attorno un oceano. Questa è la storia di un teatro dentro il carcere, il primo in Europa ad essere aperto alla città, per diventare così un ponte levatoio sospeso nell'immensità di quella distanza infinita. Genova, Marassi, penitenziario di fine 800, sovraffollato da quasi 800 anime, troppe e se per questo neanche troppo originale. Qui ora, tra le sezioni che si divaricano e il muro di cinta dove qualche agente pendola di vedetta, c'è una platea di 200 posti, un palcoscenico di 12 metri, tutto in legno, tutto curato nel dettaglio, nel progetto che non è solo un disegno architettonico. Galeotta fu l'idea dell'ex direttore del carcere, di un gruppo di donne e di uomini di teatro che 10 anni fa iniziarono a scommetterci. In principio fu una compagnia, teatro necessario e uno spettacolo scatenati. Professionisti e soprattutto dilettanti pescati tra le celle per dare un senso al vuoto dei giorni, tracciando il solco di un percorso lungo il quale arte, cultura e redenzione miscelano il senso. Un viaggio, insomma, una navigazione tra gli spazi, per questo l'hanno chiamato Teatro dell'Arca. Sotto l'insegna all'ex direttore del carcere di Marassi, Salvatore Mazzeo, si sente un po' come di fronte ad una stazione dove gli arrivi sono anche le partenze e nell'intreccio delle direzioni le coincidenze non sono mai scontate. L'Arca era un luogo di liberazione e noi abbiamo pensato questo nome per fare in modo che i detenuti si liberino del loro passato e affrontino una vita migliore. Quasi una rinascita, far nascere una persona diversa che si è liberata delle proprie inesperienze, dei propri errori e affronti la vita con una cultura diversa, con la consapevolezza delle regole, del rispetto della società, degli altri e quindi esca fuori definitivamente dai circuiti criminali. È dimostrato, fra l'altro, che o i percorsi trattamentali sono efficienti, la recidiva si abbassa notevolmente. In questa storia di vite e di metafore sofferte, il Teatro dell'Arca di per sé rappresenta plasticamente una scena, è il riscatto di uno spazio. Qui c'erano delle mura che contenevano dei rifiuti. Io l'ho fatto buttare a terra con i detenuti. I detenuti hanno buttato via questi muri e dove c'erano i rifiuti oggi c'è un tempio di cultura. Questa è la magia. In questa magia non c'è trucco, non c'è inganno, c'è solo lavoro, c'è un circuito che mulina energie e occasioni, che smuove la palude dell'attesa, dell'espiazione, centrifuga l'impegno, coinvolge, sovrasta l'eco dei chiavistelli, dei colpi sulle sbarre a rintoccare la costrizione alla stregua di una litania metallica. Gino Relli, uomo di teatro e di quinte, è tra quelli che hanno tenuto sempre acceso questo motore. L'interno è stato fatto da fuoriscena, attraverso il laboratorio di falegnameria che gestisce, attraverso le competenze che ha insieme ai detenuti, con dei corsi di formazione. Perciò è stato costruito tutto con un metodo teatrale, cavalle americane, è stata costruita la gradinata, il palcoscenico, le scenografie vengono costruite all'interno dalla falegnameria all'interno del carcere. Donne e uomini di teatro marchiati dalla stessa voglia di scavalcare i muri di cinta ed esplorare nuove terre, cercare risorse tra i giacimenti di umanità dove i cumuli sono a perdere, discariche dove hanno portato di tutto e dove il riciclo spesso è solo un principio scolpito nei codici. Invece è necessario, come è il nome della Onlus, appunto, teatro necessario che da 10 anni a Marassi è un effetto speciale. Il regista Sandro Baldacci è tra gli artefici di questa esperienza. Parallelamente agli spettacoli facciamo dei corsi di formazione tecnica, quindi abbiamo fatto corsi di scenotecnica, di luminotecnica, di fonica, di attrezzeria teatrale, quindi si aprono delle possibilità anche lavorative, per cui alcuni detenuti, finito il periodo di detenzione, possono reinserirsi nella società. Abbiamo un esempio molto importante di un detenuto che ha lavorato con noi, che quando è uscito è stato assunto, oggi vive a Trieste dove fa questo mestiere e fa il light designer in un, per grandi concerti, lavora con Fiore La Mannoia, lavora con Cristicchio, così come altri. C'è stato anche un detenuto che ha fatto l'attore perché ha debuttato in una compagnia professionale con Yuri Ferrini l'anno scorso al Festival di Borgo Verezzi. Oh, finalmente, grazie! Per l'inaugurazione al Teatro dell'Arca è andata in scena una prima che ha preso il largo e da Marassi è approdata al Teatro della Corte e poi girerà ancora. Un testo forte, Padiglione 40, L'ordine imperfetto, il titolo. Una specie di adattamento italiano del celebre romanzo poi diventato film da Oscar Qualcuno volò sul nido del cuculo. Storia di carcere e di malattia, di sofferenza imprigionata all'interno dei cosiddetti OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Padiglione 40 era il padiglione agitati dell'ospedale psichiatrico di Aversa. Veniva definito l'anticamera dell'inferno perché venivano inflitte delle pene disumane, erano luoghi che appunto con il 2015 si è compiuto quel lungo processo che era cominciato più di 50 anni fa con la legge Basaglia, che è partita dalla chiusura degli ospedali psichiatrici per arrivare oggi finalmente alla chiusura anche di questi ospedali, che di ospedale avevano poco ed erano luoghi dove si dice anche nello spettacolo, la caposala, a un certo punto voi siete detenuti due volte, una volta perché siete criminali e una volta perché siete malati di mente. Questa era la realtà di questi luoghi. Padiglione 40 e gli altri spettacoli, la selezione è avvenuta innanzitutto, diciamo così, sulla buona condotta, primo requisito imprescindibile, al di là di ogni velleità. Non basta la voglia e manco la vocazione, segue una specie di provino. E poi via. La voce è da far uscire, il copione, le battute, i tempi, i movimenti, le sfumature che diventano tutto. Storie e ruoli che si aggrovigliano sul palcoscenico, persone, personaggi ed interpreti. Ve ne raccontiamo tre, a partire da quella di Massimo. Non può parlare. Il ruolo di pazzo, che è uno che ripete sempre le stesse cose, uno che svariona. Mai fatto teatro in vita mia, la prima volta, un'esperienza bellissima. Io ho messo la passione, ho messo tutta l'energia che uno... I primi tempi è stato un po' difficile perché un po' c'era anche un po' l'imbarazzo, la voce che non ci usciva, però poi col resto, col gruppo tutto unito, le cose sono venute. Quanto deve stare ancora qua dentro? Ancora qualche anno devo farlo, però ormai siamo in discesa. Posso chiederle perché qua? Per vari reati, per varie rapine... Nella vita si sbaglia. Mai tradito. Basta. Questa invece è la storia di Giorgio. Io facevo il marchese d'Avola, un marchese pazzo perché cornificato dalla moglie, che entra come nel film volontariamente nell'OPG, ma poi alla fine diventa la sua casa. È la seconda volta, l'ho fatto l'anno scorso con Angeli con le pistole per la prima volta. Però è stato più difficile dell'anno scorso perché era un personaggio che non si poteva ridicolizzare più di tanto perché comunque era all'interno di una struttura che purtroppo in Italia esiste. Avrebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione di questo genere? Assolutamente no, nel senso che a teatro da spettatore sì, ma mai avrei pensato di trovarmi né in carcere né tantomeno in teatro. Posso chiedere il motivo per il quale è finito qua dentro? Per quello che tutti in Italia fanno e pochi scoprono, cioè vengono definiti colletti bianchi, ossia gli evasori fiscali. Ora Antonio da Napoli, spiaggiato su una cella in riva al Bisagno e poi la sera sul palcoscenico. Il suo ruolo qual è? Il capo degli inservienti, come l'anno scorso più o meno. Avevo fatto il commissario, anche quest'anno un ruolo un po' autorevole, un po' complicato, però me la cavo abbastanza bene. Dall'altra parte? Sì. Diciamo così, bravo. Ci mette tutto l'impegno, l'espressione giusta che ci vuole, interpretare per entrare nel personaggio. A parte che già personalmente è una persona molto solare, molto autoironico, quindi ci gioco un po' sopra, mi diverto. Posso chiederle perché qua dentro? Diciamo... un concorso di un reato vecchio che sono già su quasi 5 anni, vabbè, però siamo in discesa adesso, è servito, adesso abbiamo messo la testa a posto, pensiamo molto a migliorarci, a darci una svolta. Feste, contrattacco di Cirea, conti, Cirea, Oriali, Tardelli, gol! Smettetela immediatamente! attori dilettanti e attori professionisti, ma la scena non distingue. Sul palco il gioco è di squadra. Certo, chi lo fa di mestiere ha una responsabilità diversa, trascina e si lascia trascinare, insegna ed impara, come Matteo Alfonso, che a Padiglione 40 interpreta il ruolo del protagonista. Io faccio la parte che faceva Jack Nicholson al tempo nel film, me lo sono riguardato, è un po' difficile, non mi viene neanche da dire che faccio delle cose che faceva lui, perché no, insomma, lui è molto più bravo di me, però è stato uno spunto per lavorarci. In realtà poi ci abbiamo giocato molto di più riportandolo a noi, avvicinandolo anche alla nostra cultura. Cosa significa lavorare con chi non ha mai fatto teatro? Dal mio punto di vista, per la mia prospettiva, è assolutamente meraviglioso lavorare con loro, perché non sono dei professionisti, ma sono tutt'altro che degli amatori, nel senso sono persone appunto in una condizione particolare che hanno l'opportunità di utilizzare lo strumento del teatro per andare ad investigare altre cose. Hanno molto peso in scena, molto spesso anche più di attori professionisti con cui mi è capitato di lavorare. 10 anni di teatro in carcere, ora con un teatro vero e proprio, il primo in Europa a prendere forma e ad aprirsi alla città. 10 anni, un soffio di tempo, le pagine di un libro a cadenzare le tappe di questo percorso tra racconti, testimonianze ed immagini. Il titolo del volume è Scatenati, lo stesso del primo spettacolo. L'autrice è la giornalista Eliana Quattrini. L'idea era proprio di ripercorrere la storia di Teatro Necessario con 10 capitoli che raccontino ognuno uno spettacolo e uno dedicato al teatro e delle interviste in modo da ripensare oggi a tutto quello che è stato, quindi interviste fatte sia agli attori detenuti, sia ai professionisti che da fuori hanno lavorato qui dentro, sia agli agenti di polizia penitenziaria che hanno lavorato a stretto contatto con tutti. Ognuno di loro porta con sé una quoziente di dolore inferto, ma anche dentro di sé, che rimane dentro di sé, che in qualche modo devono trattare, e questo il teatro è un modo per esprimerlo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.